Tempo ne abbiamo davanti perché, almeno teoricamente, noi abbiamo tempo fino alle 9, vero? Dove i congressisti sono convocati in via degli Orti al ristorante Orso Grigio. Teoricamente dico, perché quando siamo stanchi siamo anche padroni di concludere e insomma basta, mi date il segno e io obbedisco. Adesso, come sviluppo per l'ordine dei lavori, mi parerebbe che potremmo premettere la discussione sulle relazioni del pomeriggio, cioè sulle tre relazioni della dottoressa Esposito, della dottoressa Dalprà e della dottoressa Rigaud, che per essere più fresche nella memoria e insieme alquanto più limitate nel raggio possono costituire un nucleo che forse si conclude, vero, con una certa rapidità. Dopo c'è una piccola comunicazione che ci è stata offerta del professor Sia e sarà cosa di pochi minuti, quindi entreremo invece nella discussione, che presumo più ampia e anche più a largo respiro, diretta a investire tutta la problematica, vero, che si riferisse alle tre relazioni di questa mattina. Questo sarebbe idealmente, almeno non sarò rigido, ma è così il mio pensiero, se voi siete d'accordo, sarebbe questo ordine. Beh, anzitutto questa precedenza alle relazioni del pomeriggio. Quindi, con riferimento alle relazioni, alle tre relazioni del pomeriggio, prego le tre relatrici di essere pronte a rispondere e apro subito la possibilità di intervento. Prego. Se possono venire all'altoparlante, dire ai presenti anche il nome, senza dubbio siamo più ben serviti. Sono Giulia Barone di Roma. Io ho trovato molto interessante la relazione di Anna Esposito, soprattutto i dati che ha ricavato dai libri di conti della cassetta delle elemosine infinite, perché danno un'idea della costruzione materiale di un culto, qualcosa che in genere è difficilissimo per lo storico della santità seguire così attentamente. Nello stesso tempo però mi ha colpito un particolare, cioè ancora a mesi di distanza dalla morte di Simonino il corpo non è sepolto, e l'osservazione del Ventimigliense viene, il fetore era insopportabile e per chi non si provvedesse alla sepoltura riceve una risposta piuttosto curiosa a mio modo di vedere, cioè il popolo si era opposto. Ora, chi ha pratica di santità basso medievale sa che è un topos quello della folla che vuole impedire la sepoltura del santo, perché il momento della sepoltura è un momento del distacco dalla possibilità di contatto fisico. Ciò non toglie che qualsiasi santo canonizzato o conosciuto, anche molti non canonizzati, nel giro di 3 o 4 giorni vengono regolarmente seppelliti, proprio per evitare gli inconvenienti di Trento. Allora, questo particolare mi interessa perché secondo me potrebbe darci una spia di quello che è l'atteggiamento di Hinderbach, cioè veramente vedere il ruolo dell'arcivescovo. Perché in un caso normale l'autorità ecclesiastica interviene, nel caso fa intervenire anche la forza armata perché si provveda alla sepoltura. In questo caso accetta quella che è la Vox Populi. Sì. Allora, perché lo fa? Beh. A me pare che ci sia solo una spiegazione. Il corpo che ha le piaghe così evidenti, finché non è sepolto, è un'immagine patetica, cioè un'immagine che emotivamente coinvolge molto di più. Abbiamo visto anche che poi l'iconografia di Simonino sepolto, l'arca, insomma, lo rappresenta poi trionfante. Cioè è un santo, un beato, che in un qualche modo ha superato la contingenza, il momento del martirio, perché è assunto alla gloria. Allora, secondo te è accettabile questa interpretazione di una più o meno cosciente volontà di tenere vivo l'aspetto patetico della sofferenza del bambino? Sì, questo mi sembra molto convincente. Tra l'altro c'è proprio una lettera diretta al vescovo di Padova, Jacopo Zeno, dove viene invitato il vescovo a venire a Trento e a vedere le ferite ancora chiare sul corpo del bambino. Quindi a quella data era ancora in esposizione. Probabilmente appunto questi unguenti, queste cose servivano a mantenerlo in una certa consistenza. Quello che lui dice, che il popolo non ha voluto farlo seppellire, lui aveva fatto fare la cappella di piombo, è provato perché ho trovato la spesa per la cassetta di piombo, quindi lui l'aveva effettivamente fatta fare, ecco. E poi non è stata utilizzata, sarà utilizzata in seguito, penso, soltanto con il corpo in esposizione. Comunque, in questo libro dei miracoli, veramente, che è un documento eccezionale, insomma, con questi 129 miracoli descritti così, a chi più chi meno, dettagliatamente, con grande vivezza, ecco, dei primi miracoli viene detto proprio, viene sottolineato il fatto che il corpo veniva toccato. C'è un esempio di una certa signora che era malata alla mammella, aveva un cancro alla mammella, e va da Simonino, prende la mano di Simonino, la mano destra, se la poggia sulla sua mammella, poi la rimette giù, miracolo naturalmente, e quindi il giorno dopo torna con la sua brava ex voto di cera da mettere. E tra l'altro una cosa interessante nelle immagini che abbiamo visto, la xilografia mostrata dalla dottoressa Del Pre, una delle xilografie dell'incunabolo trentino, no? Quello datato il 6 settembre. Bene, proprio quella si vede già il vescovo inginocchiato al corpo di Simonino con tutti gli ex voto, eccetera. Cioè, viene già mostrato. Ecco che io dicevo, quando facevo quell'accenno all'informazione data da Renata Segre, è proprio con l'arrivo del Ventimiglia a Trento, con le indagini, che il cambiamento del vescovo, cioè che il vescovo ormai si scopre, no? È in pubblico ormai, non controlla più la propria devozione, mentre prima effettivamente avrà controllato, specialmente all'esterno, no? Quindi si rifiuta di mandare reliquie perché non c'è l'approvazione del vescovo. Ecco, quindi questo è un fatto molto importante, perché proprio a quel punto lui si sente attaccato e quindi, diciamo, risponde. E l'unica risposta è dimostrare la santità di Simonino con tutti i mezzi possibili. Quindi, intendiamoci, è un comportamento anomalo quello del vescovo, che avrebbe potuto anche in un qualche modo minare le possibilità di ottenere la santificazione. Perché si sa bene, insomma, chiunque abbia pratica di santità, che dall'alto medioevo in poi uno dei segni riconosciuti della santità è l'odore soave, il profumo che emanano le reliquie. E in un caso come questo poteva essere un argomento contrario alla fama sanctitatis che intervenissero deposizioni come quella del vescovo di Ventimiglia. Ecco, nelle lettere naturalmente il vescovo sottolinea che il corpo è soavissimo, naturalmente, e il Ventimiglia, che non aveva, come dire, non aveva paraocchi di nessun genere, che sente l'odore che si sentiva. Ma dal tuo libro di conti risulta che il problema era aperto, perché questo acquisto quantità di aromi e balsami dimostra. Ecco, che poi in altri conti più noti si sa che nel 1484 il vescovo farà fare una cassetta d'argento, probabilmente in quella data sarà quella ricoperta di vetro che forse si vede nelle immagini. A quel punto era forse il caso di chiuderlo. Ecco, comunque la cosa che è veramente interessante, lo voglio ridire, è questa storia di Simone scritta dall'India, che mi sembra passata inosservata, ed è veramente una cosa scritta quando già il vescovo era attaccatissimo da tutte le parti, ed è una storia dove lui dice, tra l'altro ci sono 4 pagine di introduzione veramente importantissime, dove lui dice che adesso la storia la scrive lui, perché se ne sono dette di tutti i colori, e soprattutto la scrive e la farà circolare, ma manoscritta, in modo da poterla controllare, da poter essere sicuro che non vada in mano appunto agli stampatori, che pure gli hanno offerto, anche pagando, di avere questo testo. Ma lui non si fida, perché appunto è stato deluso da questo mezzo, e quindi adesso lui scriverà solo manoscritto. Ed è interessante, come tante altre notazioni, la cosa più importante mi sembra che in questa storia lui dice praticamente quasi tutto l'incontrario di quello che i documenti poi mostrano che lui abbia fatto. Posso, con vostro permesso, dare la parola a me stesso anche per una domanda? in questa trafila che riguarda un embrione di processo di beatificazione. Io mi domando se quel divieto che indubbiamente c'è stato da parte di Sisto IV e che anche a Venezia è stato poi tradotto anche in disposizioni civili e che senza dubbio fa onore alla Santa Sede in tutta questa faccenda, rigoroso divieto sotto pena di scomunica di professare culto a Simone, culto di martire. Questo divieto c'è. Io mi sono domandato più di una volta, e chiedo forse se magari la dottoressa Rigo può aiutarmi, se questo sia veramente quello che solitamente così da parte nostra si intende, cioè un divieto puro e semplice, oppure se non sia un elemento della regolare procedura per una beatificazione, perché almeno in tempi più vicini a noi, uno dei capitoli che per ogni beatificazione va accertato processualmente è quello che chiamano, mi pare tecnicamente, il non culto. Il non culto. Se anche di un candidato alla beatificazione degnissimo e limpido, ma si comprova che è stato tollerato una qualche forma di culto pubblico, questo costituisce un impedimento numero uno per il processo oggi. Ecco, io mi domando qualche volta se il significato di questo divieto, anziché essere stato un puro e semplice divieto perché appunto non si vuole che nasca alcun culto per una ostilità preconcetta alla canonica, se non possa avere forse un significato ancora germinale, magari nella storia della procedura della beatificazione, appunto di questo genere, perché in questo caso avrebbe più carattere di una fictio iuris questo divieto che non di una volontà precisa di inibizione del culto. Ma non so, pongo la domanda, di più non potrei dire in questo momento. Sì. E lo sapeva anche Lindbergh, come abbiamo visto. Sì, sì. Mir scheint, dass man doch bei den Zeugnissen der Verehrung beachten muss, dass Felix Fabrik zum Beispiel schon nach wenigen Jahren uns berichtet, wie er auf der Reise nach Jerusalem die erste Station in Trient macht, nach der Überschreitung der Alpen. Und da beschreibt er, wie viele Leute hier zur Verehrung des Simoninus, Beatus Simoninus zusammenkommen und wie auf dem Altar von St. Peter der Korpus des Simoninus liegt und wie er selbst nun unter den Deutschen ist, die begeistert da zu der Verehrung des Simoninus kommen. Und dann kann man sich fragen, woher und wieso kommt die Kunde? Dann muss man sich anschauen, wann schon auftaucht in den gedruckten Ausgaben des Jakobus de Voragine. In den deutschen Druckausgaben erscheint sehr früh schon ein Einschub über den Beatus Simoninus. Also der Trienter Fall wird auf diese Art und Weise auch literarisch verbreitet und während er ikonografisch keineswegs so rezipiert wird wie im Raum Trient und Italien, wie wir das ja so eindrucksvoll gesehen haben, ist aber literarisch durch die Drucke, auch zum Beispiel die niederdeutschen Drucke des Jakobus de Voragine bekannt. Und das hat eine unmittelbare Reaktion bei den Pilgern, die deswegen Station in Trient machen und den hier den concursus erleben des Volkes zur Verehrung des seligen Simonides. Posso riassumere in italiano. Dunque, padre Eckert accerta come Trento, col caso Simonino, appartenga presto alla catena dei grandi luoghi di pellegrinaggio. Chi va in Terra Santa dalla Germania fa stazione a Trento per Simonino e cita appunto il Fabri come una testimonianza illustre al riguardo. Si chiede anche quale può essere stato l'elemento principale che ha causato questa popolarità e ritiene che principalmente abbia influito la via letteraria, la propaganda letteraria. Cita in proposito le prime edizioni a stampa della Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine, soprattutto in zona renana, che già sono integrate con la narrazione di Simonino. È già inserito nella Leggenda Aurea e quindi insomma figura nell'albo dei santi recenti. Ci sono edizioni ridotte popolari della Leggenda Aurea che vengono divulgate ampiamente tra il popolo e la signora Walsh dice che insomma, sarebbe interessante verificare se Simonino sta anche in queste edizioni ridotte, perché in questo caso la popolarità è garantita. Yeah. È quasi una guida per i pellegrini che si muovono per l'Europa. Allora, qualche altro intervento, sia relativo alla dottoressa Esposito, sia alle due relazioni iconografiche? Es ist nicht immer notwendig, dass etwas kirchlich bestätigt wird. Der Werner von Bacharach zum Beispiel hatte niemals eine Beatifikation erfahren, sondern die Bemühungen, die im 15. Jahrhundert unternommen worden sind, sind nicht akzeptiert worden. Und trotzdem ist der Werner von Bacharach sehr, nicht nur sehr populär, sondern sehr verehrt bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Nicht also, das, also man muss sehr unterscheiden, die Rechtsebene, das ist eine Sache. Und eine ganz andere Sache ist, wie er im Volk als Heiliger verehrt wird. Und das waren fast ganz ähnliche Argumente, nur dass es eben keinen Prozess gab. Ja. Dunque dice che non è affatto indispensabile che ci siano approvazioni ufficiali. In questo tempo culto nasce da più parti senza alcuna approvazione e nasce a furor di popolo, diremmo, no? A fronte del quale le autorità poi se la vedono presto o tardi come regolarizzarlo, ma ci sono molti casi, ha citato il fratello caso di Werner von Bacharach, no? Dove non c'è mai stata una qualsiasi beatificazione, eppure valeva per beato anche in tempi recenti. La formalizzazione è frutto di una evoluzione storica che va gradatamente evolvendosi e diventando sempre più esclusiva. Das Problem der Volksfrömmigkeit, die nicht unbedingt immer kirchliche. Appartiene alla pietà popolare che non sempre e in tutto deve essere normata, però si sviluppa anche per forze autoctone. Bene, sull'iconografia nessuno desidera intervenire. Dico la verità che io ho goduto molto le due relazioni. E partendo dagli interessi dell'Istituto di Scienze Religiose mi sono congratulato molto con le due relatrici perché noi nell'istituto sentiamo molto fortemente questa necessità di badare molto di più all'iconografia per capire le idee, appunto la devozione popolare e tutte queste cose. La dottoressa Rigaud diceva a proposito di Simonino e di questa evoluzione che abbiamo visto, abbiamo una beatificazione iconografica, no? Una beatificazione attraverso la pittura, che è molto interessante. Ma ecco, se non ci sono altre domande in rapporto, prego. Sì, sì, sì. Fare una piccola nota sulla relazione della dottoressa Rigaud, che mi sembrava anche un punto interessante, eventualmente senz'altro lo svilupperà anche lei, ma forse nell'ambito del convegno va rilevato, cioè il problema che anche alcune xilografie del martirio su Simonino, mi riferisco in particolare a quella dell'Angelica, la seconda dell'Angelica, che però non è stata proiettata. È interessante la positura di Simonino sulle ginocchia del vecchio Mosè, che assomiglia estremamente, almeno io ho trovato una miniatura ebraica di un codice parmense del XV secolo, alla scena della circoncisione ebraica. Cioè, quindi anche il discorso del coltello, che rispecchia anche la forma e l'uso del coltello per la circoncisione nei riti ebraici, mi sembrerebbe una cosa da sviluppare nell'ambito del quadro del martirio, proprio perché i cristiani in un certo senso vedevano il discorso della circoncisione ebraica un po' così, un atteggiamento negativo, sempre per la connessione con lo spargimento del sangue. Non a caso abbiamo anche le scene della circoncisione di Cristo, che vengono raffigurate per dovere di cosa, però sempre con un certo sospetto, una certa carica, non so, di discussione che andrebbe anche valutata. Ecco. Se consentite, padre Dico. Ich habe eine Frage an die beiden Referentin, die uns die Ikonografie des Beatus Simoninus gezeigt haben. Was mir aufgefallen ist, dass es neben dem Messer, dessen neben dem Coltello, neben dem Messer, das hier eine eindeutige Funktion hat. Sie ans Beschneidungsmesser und sowas denken. Ist geradezu auffallend, wie häufig eine Zange auftaucht. Eine Zange. Ich weiß nicht, eine Zange. Ja, eine Zange. Es geht so weit, dass ja sogar in dieser Darstellung wie ein Wappen schaut das aus. Das Einzige, was auf diesem Wappen dargestellt ist, ist neben dem Beatus Simoninus. Sie erinnern sich, der Beatus Simoninus ist wie Christus König in diesem roten Mantel dargestellt. Und auf dem Wappen ist als einziges Machterwerkzeug eine Zange dargestellt. Meine Frage an die beiden Referentinnen, die uns die Ikonografie vorgeführt haben, ist, wie sie die Zange deuten. Ich will nicht vorenthalten, dass ich selbst zwei Möglichkeiten für die Zange sehe. Die erste ist, es ist mir aufgefallen, dass in den Prozessakten ja immer die Frage gestellt wird, nicht also, was das für Wunden sind und wie die Wunden beigebracht sind. Denn die Juden sagen, logischerweise, die Wunden sind ja ganz natürlich zu erklären durch die Abschürfungen. Woher hat die Zange etwas damit zu tun, mit dieser besonderen Art? Oder, was ebenso möglich ist, hängt die Zange mit der Kreuzigung zusammen? Und dafür möchte ich eher votieren. Denn die Zange ist ein ganz notwendig, die Zange kommt immer in einem Kontext ja vor bei der Kreuzabnahme. Die Zange spielt also bei der Kreuzigung eine ganz wichtige Rolle. Und wenn man diesen Gestus sieht, der ausgebreiteten Arme, nicht, dann passt mir die Zange eigentlich ganz gut in den Text der Kreuzigung. Jetzt meine Frage an Sie beide. Glauben Sie, dass die Zange deswegen in den Bildern zu sehen ist, weil eine direkte Beziehung zur Kreuzigung hin ist? Ich posso tradurre. Dunque, sono una domanda posta ad ambedue le relatrici, che parte dalla constatazione del rilievo quasi privilegiato dato nell'iconografia alla tenaglia, oltre che al coltello, di cui si è già detto, vero? Alla tenaglia. Perché la tenaglia viene così sottolineata in questa iconografia? La domanda è questa. Lui ha una sua, un suo cenno di risposta, ma chiede fino a che punto. Cioè, da un lato c'è in tutto il processo il problema di come sono nate le molte ferite che il corpicino porta addosso. E gli accusati rispondono: si è logorato nel rivo dell'acqua, o sono stati i topi che l'hanno morso, così via. No? E però, invece, dall'altra parte si insiste che con la tenaglia siano state fatte queste, no? Queste ferite. L'altra risposta adombrata, sempre messa in alternativa, è se invece questo riferimento alla tenaglia, che va acquistando un'enfatizzazione così notevole, sia piuttosto da mettere in relazione anche questo con la crocifissione, vero? Nella cui raffigurazione la tenaglia gioca un ruolo notevolissimo tra gli strumenti della passione in questo tempo. Ecco la domanda ad ambedue le relatrici su questo pensiero, che è ancora così, cerca conferma in qualche maniera. Beh, sì. Yeah. Das, was ich vermutet habe, dass also das Thema der Arma Christi in dem Beatus Simoninus zu finden ist, wodurch die These bestätigt wird, Beatus Simoninus wird verehrt als in der Imitatio Christi. Imitator Christi, Imitator Christi. Ja, es gibt im dem Kloster Neustift bei Bressanone eine Handschrift, die ist auch in der Bibliothek von Bressanone. Es gibt ein Band, das ist abgebildet. Da ist c'è a Nuova Cella di Bressanone un codice che raffigura la circoncisione di Cristo nella tipologia dell'omicidio rituale. Ci sono delle contaminazioni volute in queste raffigurazioni. Ecco, se posso aggiungere io una considerazione, ho trovato interessante anche l'osservazione fatta dalla dottoressa Dalprà a proposito dell'evolversi della iconografia di Simonino qui a Trento, cioè di un evolversi che da raffigurazioni più crude negli anni iniziali, che privilegiano il fatto vero orrendo in se stesso e quindi sono molto più adatte a riversare odiosità sugli ebrei che hanno compiuto il fatto, sia una graduale evoluzione, una spiccata preferenza invece per l'immagine del Simonino a solo, glorificato, dove gli ebrei non ci sono più intorno. E questo io lo sento molto vicino a quella che in realtà negli ultimi secoli ormai era il modo di sentire della popolazione trentina, che aveva grande affetto al bambino Simone, ma non si sognava neanche lontanamente con questo di ledere in alcun modo gli ebrei. Una delle difficoltà più grandi che noi abbiamo avuto in seno alla nostra comunità cristiana per l'abolizione del culto è stata questa: l'incomprensione totale, soggettiva dico, perché abbiamo dovuto spiegar loro come, anche se affettivamente loro venerando il piccolo Simone non intendevano incriminare nessuno, che tuttavia questo portava anche non volendo acqua a quel rivo. Ma il popolo semplice non era più consapevole di questo, non avevano più, per loro era una cosa innocentissima che riguardava l'affetto a questa. I più non si chiedevano neanche più, non era più problema neanche di omicidio rituale. Bambino ucciso dagli ebrei, va bene, un gesto di odio verso una persona può capitare, ma non era polarizzato in senso antisemita. Questo lo devo dire perché è vero, prima di tutto, e potete interpellare i più svariati cittadini di Trento, ma perché ha creato a noi una seria difficoltà nel momento della abolizione del culto. Noi abbiamo dovuto spiegare alla nostra gente come, anche se psicologicamente loro non intendevano questo, tuttavia, vero, per questo complesso. E è interessante anche nella panoramica vedere come in realtà direi la permanenza di elementi antigiudaici nell'iconografia è più cosa delle regioni circonvicine che non dell'ambiente di Trento. Non, in questo senso io ho discusso parecchio negli inizi della nostra, mi sono trovato io stesso a confrontare la mia sensibilità, che era fatta così, pur non credendo al caso, ma era fatta così, con la professoressa Volli, per esempio, che mi portava tutto il risentimento, diremo giustificato e motivato, non c'è dubbio, ma per noi non presente alla consapevolezza. Ho dovuto cominciare col assimilarlo io stesso, rendendomi conto da queste reazioni di quelle che erano, vero, per poter spiegare anche ai nostri che insomma in realtà le cose stavano in questi termini. Allora, se consentite, io chiuderei allora la discussione sulla parte pomeridiana.